È stato Mattarella a dirci che noi possiamo venire in Italia, quindi noi vogliamo wifi, wifi, anche stipendio. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Io voglio sapere chi scriverà la storia di questo povero paese massacrato dalla sinistra. Chi salverà l'Italia dalla Bonino, da D'Alema? Sto parlando dei vecchi parassiti di questo paese. I parassiti! Adesso questi porci della sinistra, no? Questi criminali! Sono criminali! Si preoccupano del populismo. Il populismo non ha fatto una vittima. Non lo sanno che l'anno prossimo ci saranno le palandrane in Parlamento. Gli islamici non devono entrare in Parlamento per evitare che questo paese, per evitare, voi lo sapete molto bene cosa accadrà a questo paese, mi vedo piangere, per evitare che questo paese diventerà afro-islamico. Io non ce l'ho con l'Islam. Io ce l'ho soltanto che gli islamici devono mettersi in testa che non possono vivere con i cristiani! Quei porci criminali del PD, che sono tutti criminali! Renzi è un criminale! State attenti a Renzi, italiani! State attenti a Renzi, è un criminale! Che non c'è un uomo forte, con i coglioni! Cadremo tutti nella miseria! Ci saranno gli africani che mangeranno le nostre donne. L'Italia non cresce più. Gli italiani non ci sono più. C'è l'Africa, c'è l'Islam. Le peggiori facce del mondo le abbiamo in Italia. I comunisti. Quelle fecce rosse. D'Alema, il criminale D'Alema, fermatelo. Quell'altro porco di Saviano che ci cagherà in faccia, ci piscerà in faccia quando dice che vorrebbe al sud i sindaci africani. Quel criminale! Guarda, io ti denuncio, Oh, senti, il camion. Come fa, trombe, come fa? Mamma mia. Dove? Ma dove andremo a finire? Cioè, dove ormai l'asticella quanto è alta ormai? Amica mia! Appello a quelli che chiamano alla zanzara. Allora, cari amici, ormai il fascismo è ampiamente superato. L'hai già detto ieri. Lo ribadiamo ancora. Quindi l'appello è quello. Cari nazisti all'ascolto, ora è il vostro turno. Dopo un anno e mezzo in cui questa radio, purtroppo, in questo spazio, ha dato voce a degli fascisti schifosi e post-fascisti, neofascisti. Tutti nel loro insieme con le diverse sfumature, ora basta, ci sembrano troppo moderati, a Cruciani sembrano troppo moderati i fascisti, alziamo l'asticella, nazisti, forza, avanti, fatevi avanti, sì, nazistelli, però, cominciate a chiamare, cari nazisti, però, è il vostro turno però, ora. Caro Davide, dovresti rivolgerti in primis a uno del centro-sinistra, assessore ad Orvieto, un tale, città a me, come sai, molto cara, io per metà umbro proprio della zona di Orvieto. Ha dato i Natali anche al signor Stella, che è stato... Vabbè, chi se ne frega, ma chi lo conosce, chi se ne frega. Allora, questo signore che si chiama Massimo Gnagnarini, assessore, giunta di centrosinistra, in Umbria, vabbè, non mi sembra una cosa strana, giunta di centrosinistra, ha scritto a proposito dei Rom, ve lo leggo testualmente, ripeto, se fosse stato di destra sarebbe caduto giù il mondo. centrosinistra, sì, lo criticano, però alla fine pure te dici sì, vediamo, però allora ci ha provato, ci aveva provato anche zio Adolf a prendere qualche rimedio politicamente scorrettissimo, ma non gli è riuscito neanche a lui. Amico mio, rivolto ai Rom significa nemmeno ad Adolf è riuscito l'eliminazione dei Rom. Una battuta stupida e infelice. Ah, una battuta stupida e infelice. Sì, però è importante chi dice le cose, poi una te lo spiego meglio. Una battuta stupida e infelice. Sì, sicuramente, non puoi cioè, dire siccome che... siccome di centrosinistra lo possiamo assorbere, no, questo assorbere signore. No, assorbere no, ma sicuramente non è che è cresciuto nella cultura fascista, quindi le sue parole... E allora? Beh no, ma chi, beh, chi di ah, Nietzsche? Sono meno gravi, dici, ma sono meno sicuro, gravi. Il filosofo ah, sicuro, Nietzsche, ma dai, il filosofo ma chi Nietzsche se ne frega di Nietzsche? Diceva, lo dirai dopo, è importante dopo. Chi dice le cose, no? Vabbè. Ripetiamolo, ripetiamolo più volte. Però ragazzi, l'audio del giorno è questo. State molto attenti, cercate di capire bene. L'audio del giorno sono 30 secondi. L'audio del giorno è questo. Via. مش انتوا دول احنا اللي عايزينها لا مش هي دي اللي عايزينها بص طب هو بتدافع عنها ليه انا مش بدافع عنها انا بدافع عنها انا بعدين معلش كده بس بس حضرتك Avete capito tutti, naturalmente? Avete capito tutti, non beh, avete capito grandi linee, grandi linee. Allora, trattasi di un signore arabo, di un signore arabo egiziano per l'esattezza, un avvocato che si chiama Nabi Al-Wash, Nabi Al-Wash, che durante una trasmissione televisiva dalle parti del Cairo, penso una specie di zanzara del Cairo, può essere, non lo so. No, lo sentivo dalla concitazione, dalla poi... concitazione, si chiamava la zanzara del Cairo quella. Ha detto: stuprare chi si veste in modo provocante è mamma un mia dovere nazionale. Mamma. Girare con metà di dietro scoperto, e ha fatto anche il segno del culo, metà di dietro scoperto, è vede, implorare diciamo, violenza. Implorare no violenza. Un pazzo questo scatenato offre la società araba. Beh, no, la società araba. Questo offre un pazzo la società araba un pazzo islamica. Scatenato. La società islamica. Da noi, se dici una cosa del genere, giustamente vieni perseguito, no? È strano che lo dica un avvocato, questo è ma il punto, anche un uomo di diritto. Ma quello è uno che una volta ha dato una scarpata durante la stessa trasmissione, una scarpata ah, in testa, sì. Ho detto che è la zanzara del Cairo. Sì, una scarpata in testa, una, a una perché aveva detto a un imam. Lo stesso avvocato? Lo stesso, ha dato è una avvocato, scarpata in testa, la sua sì scarpa, si è tolto la scarpa, l'ha dato in testa a un tizio che diceva che non era obbligatorio che le donne tenessero il velo. Quello si è incazzato in nome dell'Islam puro e duro, ha preso la sua scarpa e gliel'ha data in testa. Sì. Questo è, ragazzi. E a proposito di questo, mi sembra di capire che i signori dalla vostra parte, caro Parenzo, si sono gettati sulla questione islamica. Per esempio, sì, hanno beh, intervistato. È una novità. No, no, hanno intervistato ieri sera una sì, signora sì che si chiama Amira, obbligata, obbligata a beh portare il velo dal marito, che descrive ovviamente tutto quello che accade. Sentiamo. Era un inferno, una gabbia, stanza chiusa, buio, la mia casa era la mia tomba. Non posso andare in medico, non posso uscire, le tapparelle sempre chiuse, non posso respirare, era minaccia di morti sempre, paura. Quando lui apriva la porta, io mi viene proprio un colpo di paura. Mio marito mi diceva: ti ammazzo, ti porto nella tomba. Lui ha detto che oggi sarà l'ultimo giorno della tua vita. Io ti ammazzo e ti porto in tomba i tuoi genitori, tuo papà. Ma torniamo a cose più serie. Berlusconi con Sgarbi. Io e Vittorio siamo lesbici. Io e Vittorio siamo amici e litighiamo da molti anni. Siamo andati un giorno dallo stesso medico, ha scoperto in noi un carattere troppo femminile. Abbiamo approfondito. Per fortuna era lesbico. Adesso Berlusconi si è fissato come una volta con i comunisti sui 5 Stelle, no? Dice che sono pauperisti. Sono pauperisti e dice che anche l'86% di quelli dei 5 Stelle non ha mai lavorato. Questi signori li abbiamo imparati a conoscere in Parlamento. L'86% di loro non ha mai fatto una dichiarazione dei redditi. Significa che non ha mai lavorato. Poi una volta diceva questo che è vero, no? Bah, sì, vabbè, d'accordo, sono anche giovani molti, giovani all'italiana, sì, diciamo, eccolo, sono anche eccolo, molto eccolo giovani. Qua, eccolo qua, ma no, non è un momento, eccolo, Cruciani, Casaleggio Associati. Sì, ma non è Casaleggio Associati, ma non me ne frega momento un cazzo se uno stelle, ha lavorato o no. 5 stelle, ma che me ne frega se uno ha lavorato momento o no? Momento dei 5 Stelle, a te la parola. Scusa, forza. Ma l'importante parla attraverso il web, no? Parla attraverso la rete. Scusami, manda mail, non fa più trasmissione radiofonica, è superata la trasmissione radiofonica. Ma a me, scusami, no, ma a me non me ne frega niente. Ma cosa, scusami un attimo, ma perché mi dovrebbe interessare se uno ha lavorato o no? C'è importante che sappia fare bene il parlamentare, che appunto non rubi, che non sia disonesto. No, che abbia un minimo di esperienza, ma che abbia no, un minimo ma, di conoscenza della dinamica della politica. Scusami, che abbia... ma anche quelli che hanno avuto tutta l'esperienza del mondo si sono rivelati dei banditi, dei ladri, dei truffatori. Che cosa c'entra? C'entra? Mica tutti. Cosa vuol dire? Ma, le grandi scuole politiche, le grandi, grandi tradizioni scuole politiche popolari, che hanno distrutto che questo hanno reso paese. Grande questo paese, sì, l'hanno portato nel G8, amico mio. Al netto di tutto, democristiani e comunisti hanno portato questo paese dei democristiani e dei comunisti. Al netto di tutto. Poi, come diceva, è rimasto coeso, unito anche nelle e momenti più drammatici dei comunisti e dei democristiani. Di Piombo. Fermo là, fermo là, fermo. Allora, nobile politica. Diceva che erano coglioni i comunisti, adesso chi vota 5 Stelle non ragiona. I 5 Stelle gli hanno già fatto sapere che si può e hanno in previsione un'imposta patrimoniale del 12% per tutti noi. Chi vota per i 5 Stelle è una persona che non ragiona, è una persona che non ha testa. Allora, voi che voterete 5 Stelle, pare 20-25% di persone di questo paese, siete gente che non ha testa. Siete gente che non ha testa. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701, scoprirete che potrebbe anche andare peggio. La regola dell'abruzzese è frutto della tradizione contadina. Non può avanzare il cibo perché è un'offesa rispetto a tutte le... Ma sono le 4 di pomeriggio però! Sono le 4 di pomeriggio, quindi è colpa tua che alle 4 di pomeriggio per alimentare il tuo consumismo sei ancora seduto a tavola e adesso però la tua etica ti deve portare a finire tutto quello che c'è sul tavolo. Ce la posso... Questo era Parenzo impegnato in un pranzo luculliano. Ma non ho capito, ma questa è un'intercettazione telefonica. Ma chi sei, Woodcock ormai? Io domando un messaggio privato e tu lo hai diffuso. Beh, certo. Faccio appello a questa radio affinché venga risarcito della cifra per un danno stimabile attorno ai 250.000 euro. Lo stimiamo così, chiudiamo a 200.000 e siamo a posto. Un danno enorme mi hai fatto alla mia reputazione. Ieri, sì, è vero, ero a colazione con questi amici abruzzesi. Colazione iniziata alle ore 1, finita alle 16.45. Mamma amico mia, mio. Ragazzi. Però mamma voglio mia. Dire, non sei autorizzato a diffonderlo. Lo hai fatto, ora andiamo in tribunale perché non funziona così. Danno enorme hai fatto. Mi hai fatto un danno enorme. Enorme. Dovete sentirmi, 42 anni di contributi. Oddio. Per avere 500 euro di pensione all'INPS. E questa è ancora più elaborata questa. Ancora più elaborata questa. Allora ragazzi, io non riesco a capire una cosa. Mentre in America si fanno nomi, secondo me è una follia, un'ipocrisia totale, togliere i premi agli attori che vengono accusati, una cosa ridicola, patetica, a mio parere. In Italia però non viene fuori il nome di questo regista che viene accusato da molte persone, da molte attrici, diverse attrici, testimonianze raccolte dall'ottimo Dino Giarrusso delle Iene. Non viene fuori però il nome di questo regista che avrebbe questa volta sì, almeno dalle descrizioni in maniera chiara, fatto violenza nei confronti di queste donne. Cioè non c'era consenso, non c'è stato uno scambio successivo dei favori che sono stati dati. Perché non viene fuori questo nome? Cioè, perché questo nome non si ha il coraggio di dirlo se ci sono state vere e proprie violenze? Capisco che ci sono dei problemi legali, però se le donne hanno il coraggio, bisognerebbe tirare fuori questo nome. Cioè, bisognerebbe dire il signore, nome, cognome, mi ha fatto questo. Mi pare capzioso, mi pare. No, capzioso. Ma ho capito, ma uno non è che può fare. Rimaniamo al tema, rimaniamo al tema. Perché non viene fuori questo nome? No, no, il tema, per esempio, è la testimonianza, no, è qui è molto chiara. Senti un attimo questa testimonianza qua. Abbiamo iniziato a improvvisare delle scene. Man mano che le scene andavano avanti, il contatto fisico diventava sempre maggiore. Creava una scena in cui dovevamo baciarci perché eravamo marito e moglie. È spogliato completamente nudo. Mi sono sentita letteralmente nella merda. Non sapevo come uscire da quella situazione. Pensavo che c'era una possibilità che lui fosse interessato a fare bene la scena e renderla realistica il più possibile. Mano a mano ho iniziato a rendermi conto che stava succedendo qualcosa di assurdo e non sapevo come interromperlo. Ha provato a togliermi la maglietta, a infilarmi le mani sotto la maglietta, ha provato a togliermi i pantaloni diverse volte. La situazione era paradossale perché lui cercava di sfilarmi i pantaloni e tutto quello che facevo era resistenza. Hai pensato che ti potesse stuprare in quel momento? Sì, aveva gli occhi da matto, non sapevo come uscire da questa paralisi che avevo. Quando non è riuscito a spogliarmi, ha cercato in tutti i modi di mettere la mia mano sul suo pene. Voleva che tu lo masturbassi? Voleva che io lo masturbassi. Io ponevo resistenza e a un certo punto ha deciso di masturbarsi da solo. Cioè si è fatta una sega? Si è fatta una sega davanti a me. Io niente, ero paralizzata, ero seduta su un lato del divano. Mentre era in piedi a masturbarsi davanti a me, avevo paura che potesse eiacularmi addosso. Lui si è masturbato fino a raggiungere l'orgasmo guardandomi negli occhi. Ha eiaculato sul divano accanto a me. Allora, questa è la storia raccontata da Leiane. Il nome però non è venuto fuori ancora, cioè, nonostante diverse testimonianze puntino su una singola persona. Punto interrogativo. Vabbè. Allora, mi segnalano, a proposito della Sicilia, caro David, che non si capisce bene se il candidato del centrodestra, tal Musumeci, Nello Musumeci sia laureato o no. Allora, lui nella sua biografia online ufficiale, sai che la storia delle lauree dette, non dette, è sempre importante, no? Sì, però nel caso di Musumeci, voglio dire, no, Allora, lui scrive nella sua biografia: bancario di formazione cattolica e cresciuto nelle file della destra politica catanese. Giornalista pubblicista, compie gli studi universitari in scienze della comunicazione. Che vuol dire sta cosa? Compie gli studi universitari in scienze della comunicazione. Allora, io vorrei chiedere a Musumeci, ma lei è laureato o non è laureato? Perché scrive nel suo curriculum compie gli studi universitari in scienze della comunicazione? Ad alcune domande. Questo lo dice Wikipedia, effettivamente. Allora, lui che vuol dire compie gli studi universitari? Che ha fatto qualche esame? Che bisogno c'è di scrivere nel curriculum se uno ha fatto qualche esame? È giornalista pubblicista, poi specifica, ha lavorato come bancario. Ma che vuol dire? Allora, è laureato o non è laureato? Altra cosa. Sembrerebbe sì. Ad alcune domande ha risposto: ho fatto la maturità tecnica, dunque gli studi universitari non c'entrano nulla. Cioè, non si capisce, ha la maturità, ha laureato, è laureato, ha fatto qualche esame. Un po' chi se ne frega, però. Quando uno scrive sul curriculum compie gli studi universitari in scienze della comunicazione. No, per carità, sul suo profilo ufficiale. Certo, è una domanda legittima da fare. Dopodiché la questione della Sicilia passano ben oltre. È un buon candidato, non è un buon candidato. La coalizione è una bella coalizione. Luigi, chi c'è, Livorno, chi non vai. C'è, impresentabile o presentabile. Anzi, cioè, Andrea da Roma, fammi sentire. Questo Andrea. È il grande tema. Sì. Ciao Giuseppe, buonasera. Dimmi. Ascolta, io ho sentito prima l'avvocato egiziano, veramente sì. Incredibile, no? Però ti volevo far presente una cosa. Io sono stato per qualche anno con una ragazza danese. Danese, sì. E che c'entra? Nel senso che se in Danimarca l'avessero sentito a te la scorsa settimana quando si è parlato dello scandalo Agli Argento, Starlet, eccetera, eccetera, e alcune volte per come parli delle donne sulla prostituzione, più o meno saresti considerato un po' come l'avvocato egiziano. Tu sei fuori di testa totalmente, cioè no, tu sei completamente fuori di testa. A parte che a me della Danimarca non me ne frega un cazzo. No, però sai, la visione della donna. La visione della donna che è una grande. Io. Emancipata della quella sua e saresti considerato probabilmente. Ma io non lo so, ma tu sei la dell'arabo. Ma tu sei completamente pazzo, io non ho mai pensato. Io ho una grande considerazione delle donne, non mi permetterei di dire delle cose nemmeno lontanamente simili a quelle che ha detto questo cretino, carità, questo coglione, questo infame di questo avvocato egiziano. Ma io ho detto semplicemente che è stato uno scambio, un interscambio, quello tra alcune attrici e dei produttori. Credimi, hanno una visione talmente scusami, avranno anche una visione, ma avranno una visione diversa. Ma a me dalla Danimarca che me ne frega, cioè che me ne frega di come vedono le cose in Danimarca, tra l'altro in Svezia o in Danimarca, anche in Danimarca credo ci sta un tasso di violenza sulle donne altissimo, proprio non abbiamo nulla da imparare, niente da imparare da questo punto di vista, nulla da imparare. In Svezia picchiano le donne, molto più, ma rapporto che ci sta dei rispetto nei confronti delle donne è assolutamente molto diverso. Fermi tutti. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta La Zanzara. Crucia Sinalote, latrina, latrina. Tu sei partito ad insultare il sud ed in particolare una città. Coglione! Noi sopportiamo, non siamo violenti, solo qualche minaccia qua e là. Cazzone! Hai detto che siamo ladri e imbroglioni, che sarai mai qualche truffetta per campare. Facciamo la pace, ridiamoci su, dai che non è niente. Dai Cruciani, dai! Caro Cruciani, vieni a Napoli, vieni a Napoli, per te una scudazza sul papà. Vieni a Napoli, vieni a Napoli, nel caffè macchiato latte non sarà. Coglione, vieni a Napoli, vieni a Napoli, la tua auto più ruote non avrà. Vieni a Napoli, neanche il tuo fetor ti salverà. Canzone, canzone. Vai giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un faccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Questa no, La città no! Gio, ho visto che ti hanno rubato la bici. Ecco, nel mio paese, in un paese in cui non si scopa più, queste cose non succederebbero, perché sarebbero tutti quanti occupati nelle faccende che realmente importano. Perché rubi una bici? Perché vuoi scopare. E questa è la verità. Guarda che ci sono dati statistici che dicono che il 95,7% dei ladri di biciclette lo fa perché deve soddisfare la propria voglia di sesso. E questo è assurdo, per andare a rimorchiare, capito? A rimorchiare quelle mezze disagiate, strafatte di crack e di MD nei peggiori pub dell'Emilia Romagna. Questo è il problema, capito? Questo è il problema. Il mio paese è un paese che sarà più sicuro, è un paese che sarà più onesto, un paese più ricco, più focalizzato verso le cose importanti della vita. Sarà un paese migliore, sarà un paese in cui sarà vietato scopare. Votate per me, votate per la vita, per la gioia e soprattutto per quello che più conta. Votate per la salute. Ragazzi, questo è un proclama pazzesco, caro David, ma sarebbe davvero un mondo migliore, ma secondo me no, dai, eh? Si è perso quello, si è perso. Allora, Khalid da Bologna. Khalid, Bologna, vai. Buonasera. Dimmi, sei muslim? Tu sei muslim? Precisare una cosa. Sì, sei muslim o no? Oh, amico mio, sei muslim o no? Sì, sì, io sono musulmano laico, sì. Anche se tu dici muslim in maniera spregiativa. No, che spregiativa, ma assolutamente, perché spregiativa? Assolutamente no. Cioè, va bene, io sono musulmano, sì, laico. Sì, allora? No, volevo solo precisare un fatto che i miei sono molto grave, perché quello che ha detto quel maiale egiziano, quel imbecille sottosviluppato e arretrato, ha detto esattamente quello che ha detto te, ma cioè relativamente al fatto che la donna si veste una volta vestita, se si veste in modo provocante, il culo fuori, la coscia fuori, eccetera, eccetera. Ha ma detto, guarda che lo pensano tanti musulmani. Lo pensano tanti musulmani che sono in Italia, cioè tanti musulmani che sono in Italia pensano che la donna debba andare coperta perché altrimenti stimola gli aggressori. Poi quello ha fatto un passo in più e ha detto addirittura che è dovere nazionale stuprarla. Anche alcuni italiani lo pensano. Ma vuoi paragonare stuprare gli italiani che lo pensano che sono dei rincoglioniti piuttosto che una religione? Ci sono alcuni italiani che dicono delle minchiate simili, ci sono purtroppo. Se mi state parlare, dimmi Calinda, dimmi allora, lui non ha detto stuprata, ha detto che è un dovere nazionale molestarla. Tu sei egiziano di origine? No, io sono marocchino. Però l'hai capito? Quell'arabo lì che abbiamo fatto sentire, l'hai capito o no, quell'arabo? Sì, quell'arabo l'ho capito benissimo. Beh, violentarla, uguale, molestarla, violentarla, uguale. No, dai, scusami, se uno mi tocca, cioè, lui ha usato il termine. Se uno tocca Carlo, il culo, scusa, no, fammi capire. No, se uno ti tocca il culo, non è violentarla? Un secondo. Allora, dimmi. Se lui ha detto il termine taharros, vuol dire venire vicino, toccargli il culo, che è una cosa gravissima. Ho capito, però ha detto anche violentare. Mi risulta, allora la molestia. Adesso gli spiego una cosa. Ma lo sappiamo anche noi, Calinda. Allora, non ti preoccupare. Se, però, se lei lo sa, però lo, allora dimmelo. Di proposito, ma no, amico mio, la traduzione allora, di questa roba qui era una donna, se io tocco il culo a una donna, commetto una cosa estremamente grave. La donna si gira, mi dà uno schiaffo, finita lì. O se no, mi porta in tribunale. Allora? Se io stupro una donna, io posso anche finire in galera. Ma la violenza lei se la porta per tutta la vita. La differenza è enorme. Quindi quel maiale, quel schifoso maiale arretrato ha detto: se si veste così, è dovere nazionale molestarla. Non ha usato il termine stuprarla, anche se, ahimè, quello lì è comunque pericoloso. Uno che ma l'ha già detto, ha detto anche stuprare. Ma perché io ho sentito la parola, il dialogo che lei ha trasmesso. Ma tu lo vuoi quasi salvare, dai. Lo vuoi quasi salvare, ha detto stuprare. Io sono laicissimo, vivo in una famiglia dove c'è avvocato, farmacista e laureato in economia e commercio, tutte donne che lavorano a Marrakesh e ad Agadir, quindi tanto per essere chiari, vengo da quel tipo di famiglia lì. Dove il velo, Roberta Vari, Parlato anche di stupro, ha parlato anche di violenza, di violentare. Quello che io ho sentito dalla Zanzara ha detto il termine molestare. Grazie. Precisare che molestare, eccetera, eccetera. Ah, volevi precisare che molestare non è stuprare. Benissimo, grazie della precisazione. Lui purtroppo dice una cosa che quando in Italia si leggono i commenti sul caso del produttore americano si dicono cose molto simili, per cui una toccata di sedere fatta a un'attrice va bene, perché non è, quindi anche nel nostro occidente alcuni commentatori maiali sostengono sostanzialmente una cosa molto simile, quindi è inutile indignarsi per la cultura islamica quando anche da noi nella cultura occidentale alcuni comportamenti sono considerati, questo è la grande ipocrisia. Per me una toccata al culo data a un'attrice è grave, quindi è inutile adesso perculare gli islamici che sicuramente dicono delle cose aberranti. Ma che c'entra la religione? No, dice di ma mezzo devi della avere religione la stessa durezza nei confronti del produttore americano, la stessa durezza, e invece lì si difende e invece lì si dice tutto lei. È così, ma voi siete anche Feltri lo ha fatto, ha detto ma sì, ma in fondo una leccata e un'asciugata, che differenza c'è tra Feltri e quell'islamico lì? Sicuramente che Feltri è più simpatico, sicuramente Feltri non è un violento, ma nell'essenza, nel giustificare la leccata, perché questo ha fatto, no, ma ragazzi è così, ma purtroppo lì c'è in mezzo la religione, cioè la tradizione, la cosa, ma no, mentre siccome nell'Occidente non c'è la religione ma c'è una giustificazione, ma quale interscambio? La giustificazione che si dà allo stupro dell'elite occidentale, Feltri come l'imam, amici di Libero, Feltri come l'avvocato egiziano, ma se ha giustificato la leccata, mi pare, se giustificare la leccata, giustificare quella che voi chiamate, ma io non giustifico nulla. Questo è stato fatto. Una grande differenza sostanziale. Luigi da Livorno, c'è una cultura diversa lì che va, Luigi da Livorno, è la nostra, però Luigi, sai, non è che qui in Occidente le cose vanno tanto meglio. No, Luigi niente, non mi interessa. Luigi da Livorno, dimmi. Luigi, chi se ne frega? Vuole parlare con Parenzi. Sì, ma Parenzo non vuole parlare. Scegli gli interlocutori, Parenzo, non vuole parlare. Sì, però sento rumore, Luigi, dove cazzo sei? Non vuole parlare, Parenzo, si è stufato. come non vuole parlare? Dimmi Luigi, dimmi, dai. Ma come, perché mi offende? Sende, no, non l'ho offeso nessuno, non l'ho offeso nessuno. Come si permette? Ma chi è questo? Ma che cosa ha detto? Non ha detto niente. Ho detto che non voglio parlare, voglio decidere con chi parlare. Che ha fatto? Che ha detto? Ma ha chiamato razzista, razzista. Che io non sono razzista, io sono fascista. Ah, vabbè, ne avevi superato ormai. Io sono Luigi il fascista. Vabbè, ormai è superato, sa qui chiamano altri pazzi. A Livorno è un po' in minoranza lei, Luigi, scusi. No, lui offende la gente che telefona, deve smettere di offendere. Vabbè, ma adesso quelli sono cazzi degli altri. Spenga la radio, spegni. Luigi, a me sbaglia. Scusa, Luigi, spegni la radio. Che Luigi, sento intanto impari delle regole base. Okay. Prima della marcia su Roma, impari che se vuole chiamare alla Zanzara, prima della marcia su Roma, prima di tutte queste minchiate, certo. Impari che si abbassa, si chiude la radio, se no c'è un ritorno. Esatto, c'è un ritorno. No, e cominci ora a parlare. Ecco, ecco, questo impari queste regole almeno. Parla poi lui, Parla lui poi. Okay, avanti, comunque, sì, certo, parla io. Certo. Sentiamo, e impari anche a telefonare con quei tasti, impari anche a telefonare parla, intanto. Ma sto parlando sempre te, merda, ma poi sempre te, lo devi smettere, devi smettere di offendere a questa gente qui. A questa gente. Non è, intanto non si dice offendere a questa gente, perché non è un moto a luogo, non è offendere a questa gente, intanto, semmai è offendere questa gente. Lei è offeso ai miei fratelli. Ma ai miei, non si dice ai miei. Non ha offeso ai miei, si dice semplicemente ha offeso i miei fratelli. Non è italiano lei. La lingua italica non è questa, la lingua patriottica non è questa. Ma che vuoi? Non ho capito, Luigi, perché hai chiamato? Allora, ho chiamato perché il signor Parenzi che è accanto a lei mi ha offeso. Ma accanto, quando ti ha offeso? Perché ti ha offeso? Scusa, spiegami. Quando? Offeso perché ho razzisti, fascisti, nazisti. Io non sono razzista, io sono fascista. Questo abbiamo capito. Vabbè, mi dispiace per lei. È rimasto indietro, adesso ci vogliono i nazisti. È anche superato lei ormai, perché non è normale ormai dire sono fascista, mi pare. Quindi non fa neanche più notizia. Va benissimo, è fascista, ottimo. Non c'è nulla di nuovo, avanti. C'è un nazista che può chiamare per cortesia? Avanti, su, fascista ormai è chiunque fascista qui. Chiama chiunque ormai. Io voto la signora Meloni e il signor Salvini, il signor Berlusconi. Tutti, voti tutti e tre, sono tre cose diverse. Lei può votarne uno solo, però le informo anche di questo. Lei non è che può votare Meloni, Salvini e Berlusconi, sono tre cose diverse. La sinistra di me se ne può scordare. Ma chi se ne frega? Io voglio capire una cosa, Luigi. Se ne frega. Questo Luigi. Non voti la sinistra, va bene, non me ne frega niente. Io non ho capito. Ma mi sa che te ne frega. Ma non mi interessa niente. Non mi interessa nulla di quello che lei fa, neanche quando è nato, non mi interessa niente, nulla, zero. Scusimi, perché mi dovrebbe interessare di lei? Perché? Con gli studi che ho fatto, le fortune che ho avuto, perché mi deve interessare di lei? Ma non la gente in generale, io offendo i miserabili, non la gente in generale. No, lei è miserabile. Vabbè, anche può essere. Andiamo avanti. Lei perché è fascista? Una cosa fascista, avanti, forza. Io non mi scherzo. Dica una cosa fascista. Io sono fascista, me ne vanto. Benissimo, abbiamo detto questo ormai. Chi se ne frega? Me ne vanto. Ma mi dica una cosa fascista, però. Me la dica. Una cosa. Io ora mi segna lì a coso. Dove si segna? Dove? Da nessuna parte, ma non posso appunto, dire. In un reparto specializzato. Puntina. Dai, su. Ciao. Dica una cosa razzista. L'Italia, forza. L'Italia. Gli italiani. Oh, finalmente. L'Italia agli italiani. Ma che vuol dire? Lo dice chiunque, però. L'Italia. Italiano, sì, non è questo giusto. Lo dice, lo dicono anche gli italiani. I minchioni ai minchioni. Benissimo, io minchioni. Italiani! Fermi. Per il tuo cervello scegli il meglio, la Zanzara. La Zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile. Parenzo, tutte le sere lo chiamano nano e non dice un caso. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da Oracle Cloud Show. Le storie di successo Oracle danno spettacolo a Milano giovedì 9 novembre. La Zanzara. Uè, nano di merda! È parla quel demente lì, il comunista che vuole addrizzare il mondo, che vuole vietare di andare a puttare. Dico, ma che te ne frega a te? Che cosa te ne frega a te? La gallina fa l'uovo e tu te ti fa male il culo? Io voglio andare a puttane, va bene, ci vado a puttane. Ci sono andato ieri sera, ci vado sabato sera, ci vado anche stasera, ci vado anche domani sera. Che te ne frega a te? Mi piace andare a puttana. Guarda Cruciano, non c'è un cazzo di parcheggio, i colleghi stanno cercando un posto. Vicino a me c'è un posto e guarda so qua. E lì a pregare. E lì a pregare. Ma che cazzo ti preghi lì che c'è gente che sta cercando un posto? Crucia! Guarda sto qua, stai lì a pregare vicino al mio camione, guarda, collega cerca posto. C'è sto qua steso a terra che prega. Ma guarda, meno male che c'hanno freno a mano questi buoni ragazzi, guarda te Crucia. Camionista preoccupato, preoccupato dalla presenza di islamici non so dove, che pregano, caro David. Bene, bene, bene, bene, bene, bene. Ah, che mondo. Allora, Marco da Roma, vai Marco, vai. Buonasera, grandissimi. Dimmi. Senti, dimmi. Volevo intervenire a proposito di quelli prima. Sì. Quello che diciamo, molesta, la violenza sono diverse, ma come cazzo gli sta? Cioè, viene a dire che molesta e violenza sessuale sono due cose diverse. Ma diciamo, tecnicamente potrebbero anche essere diverse, però più o meno è la stessa cosa, dai. Cioè, quello sì, voleva distinguere rispetto della donna. Sì, ma certo, cioè, vabbè, ma questo mi pare evidente, no? Mi pare evidente. Cioè, un testo di cazzo mi è sembrato. Ma qual è? Quella, quella, cazzo. Quello tipo, sì, l'arabo che dice anzi, un marocchino, sì, che parla dell'egiziano. Sì. A parte l'avvocato egiziano, assurdo. Adesso mi sono procurato il cellulare di questo avvocato egiziano. Oggi mi sono fissato sull'avvocato egiziano, caro David. Su questo tizio molto qua, Nabi Al-Wash. E voglio provare a chiamarlo. Aspetta un attimo, io voglio aspettare un attimo però. Perché è curioso, no, questo avvocato egiziano che dice che è dovere nazionale stuprare le donne che vanno in giro con i jeans strappati, con il culo un po' scoperto. Ragazzi, siamo alla follia. Renato da Milano. Ciao, ciao amico mio. Renato, ciao, Milano, vai. Oh, finalmente dimmi. Qui accampato, vai, sulla corsia d'emergenza sulla tangenziale ovest di Milano, dimmi, a sentire le cagate di Parenzo. Sì. Perché che ha detto? Parenzo, che ha detto? Non ho capito. Parenzo, quando sì, vado in bagno ti penso. Parenzo, beh, ottimo, mi fa piacere Parenzo essere presente nei momenti importanti della sua vita. Sbronzo, Parenzo, sarebbe drammatico. Parenzo, sarebbe drammatico. Parenzo, vabbè, Parenzo, non fa ridere, vabbè, la poesiola, la poesiola, va bene, che premiamo l'impegno, premiamo l'impegno. Non fa ridere, cosa vuoi dire? Non premiamo l'impegno, premiamo l'impegno. Dunque, va bene. Ecco, allora volevo soltanto dire. Sentiamo, che sentiamo. State facendo un mare di parole su una questione per quanto concerne gli arabi, i marocchini, questo e quello. Sì. Questo è quello. Ragazzi, sì. Il PD ci ha inguaiati. In che senso? I signori della sinistra ci hanno inguaiati. Io sono un ex di sinistra, un ex uomo. Pentito, sono pentito, caspita, perché ormai clamoroso. Io non ho votato più PD. Mamma mia, incredibile. Mi dissocio da questi imbecilli. Certo, ma guarda, certo, siamo tutti costernati di fronte a questa cosa. Siamo sorpresi di fronte a questa cosa. Poi anche interessante il fatto che lei non voti più PD. Mi interessa moltissimo. Perché non vota più PD? Perché? Perché? Non voto più il PD perché non mi rappresenta. Benissimo. Non mi rappresenta. Mi ha smontato, ma no, papà. Anzi, una cosa interessante oggi, guardi. Allora, mi interessa molto. Qualcuno si starà rivoltando anche nella tomba. Nessuno, ma chi si rivolta nella tomba? Si rivolta nella tomba per le stronzate che sta facendo, per la noia che porta. Perfino di Vittorio Giuseppe, come te, Giuseppe di Vittorio. Ma che ce ne frega a noi di Giuseppe di Vittorio? Non ce ne frega nulla a noi. Perché hai cambiato idea? Nulla. Perché non sei più del PD? Spiegami perché non sei più del PD. Io non sono più del PD, sai perché? Perché? Dimmi. Perché? Perché intanto non è più la sinistra di una volta. Non è più. Non ci sono più la stagione. Non c'è carne né pesce. Non ci sono. Sì, certo. Parenzo lo sa benissimo. Lo sa bene, lo sa bene. Sta sì, al gioco, lo sa, no, sta al gioco. Quindi, certo. Sta al gioco, beh, certo. Ma perché? Ma secondo lei, Parenzo, mi scusi, però, perché dovrebbe essere interessata l'Italia intera a queste sue riflessioni? No, ma è importante. Cosa magari perché io Beh, allora, l'Italia intera deve essere, non è che deve essere interessata. Ecco, se vuole ascoltare, ascolta, se no spegne la radio, giusto? Sì. Speriamo di no. Speriamo di no. Renato, scusami un attimo, tu per esempio sei preoccupato dai migranti che arrivano, è per questo che non voti più il PD. No, io sono preoccupatissimo per i migranti, ma non per i migranti, povera gente. E per che cosa? Per come hanno impostato tutta la faccenda dall'inizio. Dall'inizio. Ti saluto, ciao. C'è sempre un inizio come la fine. Sempre, Antonio, sì. Provincia di Napoli, vai Antonio. Ciao. Antonio, dimmi. Buonasera. Siamo da Procida. Volevo fare una semplice osservazione al mister Parenzo. Sì, caro, prego. Che è un tutore dei diritti di tutti quanti. Però quando lui dice che la donna bisogna governarla, mica è un cavallo la donna. No, lui è un'offesa per le donne. La donna non si governa, si ama. Fare l'amore certo, nel senso io governo la donna. Ma che è? Governare nel senso di avere in mano la situazione, il controllo. Sessualmente. No, in generale. Dicevi sessualmente tu. Quando lei dice governare si mette in una posizione di superiorità nei confronti della donna. Beh, tipo un cavallo. Ma amico mio, adesso allora cavallo a parte. Per i diritti, ma le sue battaglie e dove per i sono dove finite? Vanno? Dove sono finite giustamente dove dice finite? Antonio? Dove sono finite queste battaglie? Giustamente dice Antonio. Ma giustamente dice Antonio, e trovi una fortissima contraddizione. Quando lui Parenzo dice governare la donna e si riferiva all'ambito sessuale. Mi riferisco in generale alla necessità di avere il governo, cioè di avere il controllo della situazione. Non fare l'imbroglione, figuriamoci se parla di questa porcherie. Ma come no, ti riferivi a quella cosa là? Guarda che abbiamo tutto registrato, noi sappiamo tutto. Scusi, signor Parenzo, lei è una persona praticamente quasi inattaccabile. Io lo riconosco da un punto di vista intellettuale, però e anche morale, etico, certo. Il colpo se lo deve prendere, perché la donna non si governa. Prenditi il colpo. Si ingazzano proprio alla grande. Non è un cavallo la donna, hai capito Antonio che ma dice mai Antonio? Pensato non quello, è un cavallo. Ciao, mai Antonio, pensato ciao, quello. Ciao. Allora ragazzi, voglio ripetere l'affermazione di questo signore egiziano in una televisione. Ecco, bravo, mettiamoci contro anche dovere gli nazionale bravo, stuprare bravo. Le donne in abiti succinti. Dovere nazionale pazzesco. Stuprare una donna che va in giro con abiti pazzesco, succinti. Pazzesco, un criminale. Abemus cellulare di questo signore, grazie a questa splendida redazione. Allora, lo chiamiamo, vediamo come risponde, vai. Vai con l'avvocato. No, che okay, con grande ferocia bisogna attaccarlo. L'avvocato egiziano, vai. Mamma mia. Che roba è? Ma questa è la segreteria. Ma che roba è? Cosa pazzesca. Vi giuro ragazzi, non è una presa per il culo. Ti giuro che non promette bene. No, cosa, questo qua è il facendo il cellulare dell'avvocato egiziano che ha detto quella roba sulle donne. E probabilmente sarai la risponderia là, come cazzo si chiama, la segreteria. Cioè quando è spento sta chiamando o sta telefonando, scatta questa roba qua, che è una preghiera, mi sembra di capire. Una preghiera. Beh sì, sicuramente non è il pensiero di Einaudi. No, questo non è sicuro. un invito invito alla concordia nazionale. No, sicuramente non è. Arrivamo al numero dell'egiziano, vai. Allo? Sì, pronto? Allo? Sì, sto parlando con quel pezzo di merda dell'avvocato? Alan Beek. Sì. Allo, Nabi Alawash? Ah, Nabi Alawash. Ah, hello, nice to meet you, this is Italian, hello. أنا ما بعرفش أتكلم إنجليزي. Excuse me? We speak English, sir? La, no. Do you speak English, sir? Because this is Radio 24. أنا ما بتكلمش إنجليزي. I am Giuseppe Cruciani from Italy. Giuseppe Cruciani from Italy, Mosquito. Radio 24. Mr. Sir Nabi Aliawash? Scusi, avvocato, lei sa di essere un pezzo di merda? Beh, però questo adesso non lo traduco. Questo è Cruciani, comunque, giusto per, diciamo, sa di essere un infame, un pezzo di merda, un lurido maschilista? È sempre Cruciani questo, però, comunque, eh? Sì, però non è che ha tutti i torti, di fatto. Ma scusa, ma sei veramente un coglione? Oh, perché gli hai detto? Beh, sai com'è? Quella è gente che non ha il senso dell'umorismo, propriamente. Ma abbiamo ribadito intanto che sei tu. Devi ribadire che ero io. Ma quello è veramente un pezzo di merda. Dovresti dirgli anche tu che è un pezzo di merda. Questo sicuramente. Però dici, volevo un approccio un po' più soft. Non vorrei mettermi contro tutto l'Egitto, diciamo, il signor Al-Sisi. Lo sai che dovrei. Allora, però mi sono rotto i coglioni. Siccome abbiamo chiamato senza qualcuno che parla arabo. Dovremmo procurarci qualcuno che parla arabo. Forse sì, ci vuole. Adesso vediamo, faccio un po' di telefonate. Fermi là. Mi piace stare nel tuo salotto, stronzo. La Zanzara. Cioè, fammi capire, David, tu hai le palle di andare a Casa Pound a parlare con i fascisti che tu tanto disprezzi, e poi non hai le palle di assumere la Roma che da anni difendi? David, li portarci tua. Allora, andiamo in provincia di Genova da Willy. Intanto, bravo, ragazzi, al lavoro per procurarci un traduttore, una traduttrice dell'arabo, perché ormai intanto mi sono ricordiamo fissato. Sì, bravo, no, bisogna trovarlo, cioè bisogna stanarlo questo. Intanto ricordiamo, giovedì prossimo, ore 21, a Casa Pound, il match forse più atteso della storia dell'anno. Andrò nella Parenzo tana contro dei lupi. Contro dei lupi. Contro il comandante di Stefano. Di comandante Stefano di Casa Pound. Di Stefano versus Parenzo. Sì. Giovedì 21, 9 ci sarai novembre. Anche tu, credo, mi hanno detto. Quindi, non lo so, insomma, vediamo. Saremo lì per una grande dibattito. La dialettica, il dibattito, lo scontro tra idee opposte. Willy, provincia di Genova, dai. Buonasera, quale onore? Dimmi, onore, hai chiamato tu. Beh, onore. Adesso l'onore, sì, lasciamolo. No, comunque, dai. Onore. Sono emozionatissimo, la prima volta che chiamo. Amico mio, volevo non dire... c'era un per cazzo con queste cose. È bello però questa parte, sì, sentimentale. Però, dai. Volevo dire che riguardo al fatto della manata sul sedere, mi sembrate un po' troppo proibizionisti, perché io ho 41 anni e sono cresciuto con film di Pierino, della Fenech, in quel periodo lì che voi conoscete voi anche, credo, molto bene. Che c'entra, scusa? Certo, sì, volevo dire che crescendo in questo modo, quando ci siamo trovati tutti alle medie, a scuola, tutti assieme, tutto sommato, anche se davamo una manata sul culo alla compagna di scuola... Ma io non ho mai dato la manata a nessuno, perché a casa mia mi hanno insegnato che non si fa. Non è che siccome uno guarda Pierino, io allora lo fa. Non ho mai toccato il culo, dai, a nessuno. Ma di che parliamo? Ma noi a scuola lo facevamo, mi sembra che amico i nostri traumi non abbiamo lei lo faceva alle nostre compagne di classe. Ma se tu toccavi il culo alle tue compagne di classe, ma sono cazzi tuoi, io non ho mai appunto toccato il culo a nessuno. Neanch'io. Sì, ma di che parliamo? Tutto sommato, se non con l'autorizzazione. Traumatizzate. Ma no, va bene, può darsi che a 15 anni. Poi ve la prendete con gli arabi. Però vedi. Ma che c'entrano gli arabi adesso? Cosa c'entrano gli arabi? Se uno tocca il culo a una e questa qua non vuole, è un coglione. Cioè, punto e basta, è un coglione. Poi, ovviamente, bisogna vedere quante volte lo fa. Se questa persona dice non lo fare mai più e tu torni a rompergli i coglioni, è giusto che questa persona ti denunzi, oppure i suoi genitori ti denunziano, oppure i suoi due genitori, che ne so, ti non lo so che cosa possono fare. Willy, ma cosa vuoi dire con questa cosa? Non ho capito bene. Sto solo dicendo che nel periodo in cui ero adolescente io era una cosa consueta e che ma consueta per lei, ma consueta per cosa? Me, per tutti i miei compagni di scuola, per chi l'ha educata, per consueta anche per quelli che l'hanno educata. Ma tu stai parlando di un'altra cosa, stai parlando di scherzi che si possono fare tra ragazzi a scuola. Una cosa è questa, certo, una cosa che passa uno gli tocca il culo, che vuol dire? Cioè, non... no, allo sconosciuto sull'autobus logicamente è reato. Se qualcuno dà una manata sul culo a mia moglie, vabbè, certo mi incazzo, è chiaro. Vabbè, Willy, ciao, te saluto, ciao. Allora ragazzi, io chiamerei quello di Orvieto, però, quello di Orvieto, il signore di Orvieto, caro Parenzo, che ha scritto su Facebook, ci aveva provato sui rom, ci aveva provato anche zio Adolf a prendere qualche rimedio, politicamente scorrettissimo, ma non gli è riuscito neanche a lui. Giunta di centrosinistra, pare si sia dimesso. Vediamo un po' se hai il coraggio di attaccarlo come qualsiasi altro fascista o di destra che dice cose sui rom. No, ho detto come qualsiasi altro fascista o di destra che dice delle cose. Ah, è diverso. Sì, poi ti spiego. Chiamiamo. Sì, pronto? Gnagnarini? Sì? Amico mio, sono Cruciani, ciao. Cruciani, Radio 24, come andiamo? Eccoci qua. Ah, Radio 24. Sì, sì, sì. Come andiamo? Andiamo con una giornata molto impegnativa. Sì, certo. Ci siamo dimessi alla fine o no? Dunque, io oggi pomeriggio alle 16 ho rassegnato al sindaco le deleghe. Che significa questo? Ti sei dimesso o no? Diciamo, per parlare in modo chiaro. Allora, mi sono dimesso e il sindaco si è riservato di accettarle o meno. Sì, ho capito. Ma tu che pensi? Cioè, sono definitive queste dimissioni oppure facciamo come tutti gli altri che si dimettono e poi invece... Io penso che spetti al sindaco e alla maggioranza che sostiene il sindaco di esaminare le mie dimissioni Molto da esaminare, amico mio. Ho capito, però se uno si vuole dimettere, si dimette. Se uno invece vuole rimanere in carica, rimane in carica. Cruciani, io le ho date le dimissioni, che te devo da dire? Te devo da dire che le devo dare due volte? No, voglio dire, se uno si dimette però dice, però vediamo che succede una cosa. Ma non lo dico io, vediamo che succede. Io ho detto... Ma come no? Se uno lo vuole fare, l'assessore lo vuole fare, basta. Va bene, Cruciani. Però tu hai parlato di zio Adolf, amico mio. Cioè, zio Adolf. Ho chiesto scusa. D'accordo, va bene. D'accordo, ho chiesto scusa, dimesso definitivamente. Mi devo dimettere così ho fatto. Certo. E al suicidio non ci sto pensando. No, suicidio che c'entra? No, suicidio non c'entra niente. Però io voglio capire cosa ti viene in mente quando scrivi zio Adolf. Con i Rom ci aveva provato anche zio Adolf a prendere qualche rimedio politicamente scorrettissimo, ma non gli è riuscito neanche a lui. Che vuol dire? Vuol dire semplicemente che non ho fatto attenzione alla frase, senso che l'ho mandata in risposta a un carissimo amico che mi aveva postato una domanda circa la presenza dei Rom. Sì, però questa è la spiegazione del contesto, d'accordo? Abbia pazienza un attimo, dopodiché. La riga sotto, e cioè due secondi sotto, abbiamo convenuto insieme al mio interlocutore di dare una risposta seria e di apostrofare come un non senso e una battuta del cacchio. Sì, però scusami. Quella prima. Dopodiché, le battute nascono sempre da un pensiero. Se tu associ i Rom a zio Adolf, parlando di Hitler, lui li aveva fatti fuori. Cioè, i Rom li aveva eliminati fisicamente. E io ti dico che è una battuta infelice, sbagliata. Ho chiesto scusa, però voglio dire, sono anche disponibile, come è accaduto, a trarne le conseguenze. Però la battuta, in quanto infelice, ormai è diventata un luogo comune a dire che non ci riesce nessuno a eliminare il problema Rom. Cioè, il sottotesto, ed è evidente che lei non sia né un nazista né tantomeno un fascista, però è evidente che il sottotesto è: ma se non ci sono riusciti neppure loro con le maniere forti, come possiamo farci? Questo è il senso, secondo me, di una battuta. Quindi ormai è entrato nell'immaginario collettivo sta roba che i Rom sono dei delinquenti, secondo te bisogna cacciare tutti i Rom? Ma assolutamente no. Perché hai parlato di zio Adolf? Parlato di zio Adolf perché ho fatto una cazzata rispetto a una frase che in maniera... Cioè, parlare di zio Adolf, tra l'altro, è come avere familiarità. Zio Adolf, lo dicono i filo, diciamo, filo nazisti, o comunque quelli che hanno della simpatia per quelle robe lì. Cioè, zio Adolf, cioè quel baffino, cioè uno quando parla così parla con simpatia verso quelle cose là. Il fatto è questo, David, che se ci fosse stato qualcuno di centrodestra o della Lega o di Fratelli d'Italia, tu te lo saresti mangiato, David. Invece hai un po' di indulgenza nei confronti. Non ho indulgenza, io però distingo. Siccome, come diceva il grande filosofo Nietzsche, è importante chi dice le cose, è evidente che la storia politica di questo assessore non è minimamente ascrivibile. No, ma è così. Questo è importante, non è minimamente ascrivibile a quel contesto. Cioè, non nasce in quella cultura post-fascista che purtroppo conosciamo. Dopodiché è una battuta infelice. Scusami, questo Massimo, è evidente. Vabbè, ma questo lo sappiamo. Massimo, scusami, tu allora ti dimetti definitivamente, sì o no? Perché qui è il punto. Io mi sono dimesso. Ho capito, però hai affidato la cosa a qualcun altro, cioè capace che ritorni. L'ho affidata a chi mi ha dato le deleghe, gliel'ho rimesso. Ma lascia perdere, per te sono definitive, non sarò più mai più assessore a Orvieto, si può dire o no? io ho rimesso le deleghe in mano al... Ma è una paraculata, dai, su. Se uno dice una cazzata, deve dire una cazzata senza... Oh. Non è che il contesto, le cose, Facebook e gli altri... amico mio, uno dice mi dimetto, punto e basta. Non è che è necessario fare l'assessore per tutta la vita. No, uno non deve rimanere attaccato per forza alla poltrona, no? Amico mio, no, rispondi una porta aperta con me. Ma allora, rispondo una porta aperta, allora perché non vuoi dire che ti dimetti definitivamente? Perché affidi la cosa a qualcun altro, poi passata la bufera si vede, questo è il punto. Il sindaco, la ma non è così, caro Cruciani. Vedremo nei prossimi giorni. Ti abbraccio, ciao. La Zanzara. Naturalmente. We get some rules to follow. Un plauso al grillino palermitano. La prima persona che silenzia Sgarbi. Miserabili! Volevo fare un appello a tutti quegli ascoltatori della Zanzara, ascoltatori per caso li chiamo io, che ci rompono i coglioni a dire che è un programma volgare e tutte queste cose qua. Volevo fare un appello con tutta la serenità del mondo. Non c'è scassata la minchia, canciate in stazione. Questa è la Zanzara. La Zanzara, ci sono parolacce per tutti. Quindi non scassate il cazzo. E se non vi conviene, cambiate stazione, ok? Per cortesia. Ok ragazzi, io sono andato in fissa con st'avvocato egiziano, non c'è niente da fare, cioè, sono andato veramente in fissa con st'avvocato egiziano, non so perché mi è venuta così oggi. Questo avvocato egiziano, un avvocato, che bello. Intanto è avvocato, sì, è punto, un avvocato egiziano. Che cioè, è quindi andato... un uomo di diritto sostanzialmente, sì, dovrebbe essere. Non esagero, in Egitto dovrebbe uomo di diritto, amico mio. In Egitto il diritto, amico mio. Sì. A me lo dici, certo, vogliamo ancora la verità su Regeni, figurati. Siete felici nel vedere una ragazza camminare per la strada con metà del suo di dietro scoperto? Stuprare chi si veste in modo provocante è dovere nazionale, amici miei. Nabi al-Wash, chiamato qui dalla Zanzara perché siamo capaci di ottenere anche numeri di cellulare egizi dell'Egitto, numeri di cellulare del signor Nabi al-Wash, stupendo. Cioè, vedi avere i numeri di questo al-Wash. Posso dire vai a fare in culo a Nabi al-Wash? Puoi dire, vai però a... secondo come me... si dice in arabo? Ecco, c'è Aziz collegato. Aziz, sì. Ciao. Aziz. Ciao Crociani, ciao Aziz. Che sei muslim, ciao, tu cara. Naturalmente, no? Che sei egiziano di origine, che sei marocchino, che sei? No, io sono del Marocco e sono muslim praticante. Pure. Praticante. Questo qua si come lo consideri, bene? Questo signore? Sì, si sente. Come lo consideri, caro, questo signore? Un pezzo di merda, come lo consideri? Più di un pezzo di merda, perché non si può trattare le donne così, in questa maniera qua. Come si dice pezzo di merda in arabo? Nandin book si dice, o Nandin amak. Allora, pezzo si dice tarf. Parz. No, ma sì, l'espressione merda, pezzo di merda, dimmi un insulto che posso dirgli, se lo chiamo, come faccio a insultarlo in arabo? Nandin book è terribile, è un brutto insulto. Ma sai, non è bello insultare, però... No, se ma, amico mio, no, insultare, sì, cioè voglio trovare una parola da dire a questo signore, che ne so, infame, lui, dimmi una parola bella da dire, un bel insulto a questo guarda, coglione. Guarda, l'equivalente, dimmi se è vero, l'equivalente dell'immortacci tua, sostanzialmente, l'equivalente... No, l'immortacci tua? È Nandin book, maledetti i tuoi morti sarebbe, ma che no, è un questo, brutto questo, insulto è un no brutto... no, Nandin book vuol dire maledetti i tuoi genitori. Ah, genitori, scusi, è vero, Nandin book. Però Nandin è un brutto book, insulto, sì, da dire, non è come non è il massimo, come in inglese, detto come bruttissimo, e non lo accetterebbe, penso, non lo prenderebbe bene sicuramente. Allora, non passiamo lo oltre. Allora, invece cretino, come si dice cretino? Lei è un cretino, diciamo un cretino. O intanto guarda che già il suo cognome è un'offesa. Perché? Se ti traduco il suo cognome, vuol dire, il nome è Nabil, e il cognome Wesh vuol dire Wesh. Mostro, vabbè, quello però. Beh, sì. Questo uomo è nome, nel senso. Sì, Nabil mostro, praticamente. Nabil mostro, Wesh. Sì. Però, cretino, come si dice, Aziz? Ahmed, cretino, come si dice? Aziz e non Ahmed. Scusami, Aziz, scusi, no, perché c'è un altro Ahmed collegato, no, perché c'è Ahmed collegato. Aziz, innanzitutto dammi soddisfazione, dimmi Abu Allahu Akbar, dimmi un bel... Perché devi Allahu Akbar? Bello, voglio sentire. Ma è bellissimo, Allahu Akbar. Io sto a leggere anche, sono uno studente del Corano, però allora... Beh, il Corano non è bella come cosa. Il Corano, Corano non è una roba bella. È bellissimo. Non è bello sacro, il Corano. Devi dire così? C'è un sacco di roba contro le donne. Ma bruttissima. Che vuol dire? Ma che dici? Ma non sai niente. Ma perché devi dire così? È tutta un'altra realtà. Tutta un'altra realtà. Quello che si vede in TV. Nelle... Vabbè, un'altra cosa. Aziz, però dimmi un attimo. Come si dice cretino? Come si dice cretino? Cretino puoi chiamarlo anche. Hemar. Hemar. No, Hamor. Hamor vuol dire vuol dire asino. Asino. Come? Maiale, come si dice? Animale. Come si dice? Aiwan. Maiale. Maiale genzir. No, però dimmi un insulto. Per... Cioè, non beh, è brutto. Se tu dici maiale è un arabo, è brutto. Fidati, è un brutto insulto. Ma non voglio di dire. Dopo questo mi butta le bombe sotto casa. Non posso maiale un animale. Puoi chiamarlo benissimo genzir. Enzir, che significa enzir? Maiale. Ma no, amico mio, enzir. Brutto, non glielo voglio dire. Brutto. Maiale non glielo voglio dire. Hai paura dire. Anche tu. Ma no, maiale. No, ma io non ho nessunissima parola. Non ho paura di nessuno. No, bisognerebbe fare un montaggio tipo Brunetta. Lei ha presente Renato. No, no, certo, ma lei ha presente. Bisognerebbe fare una cosa alla Renato Brunetta, quel nostro amico. Quando volete dice cretino, cretino, cretino. Ecco, in arabo bisognerebbe trovare una cosa simile. Ma non c'è. E montare. Ma penso che sto avvocato qua non ne sa niente né di Brunetta né di Italia. No, ma lascia perdere Brunetta, non ha capito. Aziz. Però scusami Aziz, dimmi una cosa, enzir è maiale, enzir. Sì, ma è brutto da dire. Enzir è maiale. Invece cretino, cretino com'è? Cretino non mi viene, sai. Mi suggeriscono yawati, vuol dire miserabile, mi suggeriscono yawati. Yawati, yawati. Non so se ho pronunciato bene. Miserabile, yawati. Questa è una brutta offesa in arabo. Kawad. Come si dice? Kawed. Esatto. Come mandarlo a fare in culo. Ah bene, vaffanculo, bene, beh, ottimo, ottimo. Kawed. Bene, mettiamoci contro l'Egitto, forza, avanti. Ma è bello avanti, secondo te rivicarci questo signore o no? Ti dico che ti ho detto questa offesa qua, a me non piace offendere, Bravo, nessuno. Sì, è vero, giusto. Vabbè, ho capito, amico mio, lui ha offeso, cioè ha parlato male delle donne in questo modo e noi siamo qui, come dire, baluardi della civiltà liberale, della civiltà... Come lascia no? stare, va? Come, lascia perché stare. Lascia stare? Che sul caso di Asia Argento l'hai massacrata. Ma cosa come cazzo c'è? Tu ma dico, come Alte, come Feltri, non c'è nessuno, avete fatto... Tradurre un attimo, ci sai tradurre bene quello che ha detto? Perché ci sono diverse interpretazioni, molestie, stupro, rimanda un po' all'arabo. Aspetta, sì, fermo un attimo, quello che ha detto sto stronzo, questa testa di cazzo di arabo, di avvocato egiziano della minchia. يبا التحرش بها واجب مواطني لا ينفع الكلام ده لا لا لا لا انا برضه مش معايا لا لا لا انت اللي حرير عايزينها مش انتوا دول حرير عايزينها لا مش هي دي اللي عايزينها بص طب هو بتدافع عنها ليه انا مش بدافع عنها ليه انا بدافع عنها ليه انا بدافع عنها ليه انا بدافع عنها ليه انا بدافع عنها ليه Sto parlando da come, cioè, parlando, discutendo da come si veste la donna. Gli ha detto: io non ti ho detto di vestirti così. Non è un diritto nazionale vestirti così. A parte che non è arabo questo, ma è egiziano. Allora che ha detto poi? Ha detto la parola stuprare o no? È dovere nazionale stuprare la donna? L'ha detto o no? Sì, no, ha detto: non è un dovere nazionale vestirti così. E allora cosa vuol dire? È stuprare, l'ha detto o no? Stuprare. No, stuprare non c'è la parola stuprare. Violentare o no? Violentare. No, no. Ma come no, amico no, mio? No. Ma non sai in cazzo allora. Ahmed, Torino, ciao Zizio. No, no. Ahmed, fermo. Volevo... Cruciani? Dimmi, Ahmed, dimmi. Volevo correggerti, ho appena ascoltato allora... questo pezzo di merda, quello che ha detto. Praticamente tutti pezzi lui di merda. Ha detto. Sulla, poi, tu, poi bisogna vedere come trattate le donne voi. Tutti pezzi di merda a parole, poi bisogna vedere come trattate le donne. No, no, no, ma cosa vuol dire? Allora, io sono di origine tunisina, sono un musulmano moderato e quindi io... Per me, cioè, la donna bisogna trattarla con le guanti. Sì, tra parentesi. In Italia, poi chiudo parentesi, ti volevo dire questo che ha detto. Ha detto la donna che viene vestita in modo non islamico è un dovere nazionale violentarla. Oh, benissimo, ecco la traduzione. Bene, Ahmed, è bravissimo, questo. molto bene. Ahmed, molto lo bene. So che ti fa piacere dire quello. No, però non mi fa piacere, contrario. È quello che ha detto questo pezzo di merda. Tu sei contrario, però meno male. Ti voglio dire. Ascolta, ti voglio dire, perché ho sentito anche come parla questo avvocato, che io mi sembra non è un avvocato. No, è un avvocato. Perché come ha detto il marocchino, l'amico marocchino. L'amico, sì. Cioè, lui fratello. Di cognome, cioè lui si chiama Nabil e di cognome Wash, vuol dire un mostro. Beh, già, ho capito, per se è già detto tutto. Se si chiama così che ti devo fare? È già un mostro. Vabbè, questo. Ahmed, ciao, è già un mostro. Ciao. Sì, però non siamo ipocriti, non facciamo gli ipocriti, capito? Perché questo l'ha detto, è verità. Non c'è riuscito manco zio Adolf, come bisogna fare? Poi, perché tu vuoi in Italia i rom, Cruciani? I vuoi in Italia i rom? Eh? Com'è? Da Romania hanno cacciati, invece noi si riteniamo, perché? Perché c'è sta quella testa di cazzo internazionale che li difende, quella testa di cazzo internazionale di Parenzo. Io invece li voglio fuori dall'Italia, perché mi hanno rotto il cazzo, mi fanno schifo. Vabbè, com'è? Un giorno a grilli e un giorno a polli, vai! Ma fatela finita, andatevene a fanculo tutte e due. Ha detto bene l'assessore Torghiero, ha detto bene. Ha detto bene. È ritornato lui, è tornato il camionista che io chiamo, com'è che si chiamava questo? Quirino. Signor Quirino. Quanto ti piace? Mi è arrivata la traduzione però testuale che mi ha fornito l'amico Abdallah Kabakebji. Aspetta, poi me lo dici. Sì, no, perché? Quirico Cruciani, Quirico, no Quirino. Quirico, scusami. Per cazzo. Ma com'è? Sempre un giorno che fanno schifo, un giorno vanno bene sempre i rom. Ma che eloquio, c'entra? Con un che c'entra puntuale. Col fatto che io voglio chiudere i campi rom? Sì. Col fatto che ha ragione zio Adolf? Che cosa cazzo c'entra? Chiudiamoli i campi rom. Allora io ho fatto una domanda. L'ho fatta tanto tempo fa. Quirico, è una domanda. Io ho un sacco di amici ebrei. Ma figuriamo. Senti, prima di tutto, grandissima testa di cazzo internazionale, non mi interrompere, state zitto. Buonasera al cazzo, state zitto, capito? Buonasera e benvenuto, buonasera e benvenuti dalla vostra parte. Vattene a fare culo, te chi buonasera e benvenuti dalla vostra parte, buonasera, prego. Abbiamo il primo cittadino che vuole fare una riflessione. Allora, siamo a Radio 24, prego, vuole fare una riflessione sulla giornata di oggi. Aspetta, prego, dica, buonasera. Come rompe i coglioni questo, mamma mia. Buonasera, allora, benvenuti dalla vostra parte. Sì, vai. Faccio la domanda, sentiamo la domanda. Allora, come mai tutti quanti ce l'hanno con i fratelli ebrei? Vabbè, adesso che c'entrano gli ebrei? Come mai? Fammi finire la domanda. Ma che domanda come è? Mai no, tutti però, quanti io... ce l'hanno con questo... i fratelli rom? Ma non tutti mondo. Quanti chi? Ah, i rom. Andiamo sui rom un attimo. Io voglio capire una cosa. Ha detto bene allora l'assessore di Orvieto, secondo te? Ha detto bene che devono andare a fanculo. Vabbè, un linguaggio spiccio, immediato. Io però dico una cosa, Quirico, io voglio di una cosa a Parenzo. No, Parenzo non vuole sentire, è? Non vuole non sentire le sue riflessioni. Qual è la fortuna? Che non mannero via i rom e non mannero via i migranti. Ma questa l'hai già detta però. Tutti a fame. Ma che cazzo fai? Giornalista della televisione e della radio. Ma quale cazzo è sto scoop giornalistico che hai fatto? A giornalista del cazzo, ma questo dunque, caro Quirico, vorrei interloquire con lei, caro Quirico. Aspetta, Quirico, non ho mai visto mai un articolo. Come sta? Sei Quirico, aspetta. Un mezzo in foglio di carta velina. Come sta? Cavatti a palloncino come il Bradipo, Sid. Ma come sta, caro? C'hai la faccia d'arabo, ma l'hai mai visto che c'hai la faccia d'arabo? Perché te la sei presa con me per la storia? Che faccia c'ha invece? No, perché se l'è presa con me per la storia dell'assessore di Orvieto? Ma lei che faccia c'ha, scusi? C'ho una faccia da cazzo come la tua. Ma lei che faccia c'ha, scusi, invece? C'ho una faccia che si temeredi, mi metti paura. Mamma mia. Certo non c'ho una faccia da cazzo come la tua. Ma che hanno fatto a casa tua? Hanno tolto gli specchi, hanno fatto a casa tua. Che hanno fatto? Ma che hanno fatto a casa tua? Ma ti hanno tolto gli specchi a casa? Se spaccavano da soli gli specchi a casa tua, quando tornavi a casa, ammazza che brutto che è questo. Ma so io, sono Quirico. Ma che ti hanno fatto a casa? Quirico, io voglio capire. Il signor Quirico. Però è bello, passi lunghi e ben distesi non è male. Il signor Quirico. Signor Quirico, ma proprio distesi, capito? In modo che ci va piano, tranquillo, ci va meglio. Però diciamo la verità, Quirico, secondo me ma tu ci sei mai passato vicino al campo rom De Castel Romano, Cruciani. Sì, sì, con la macchina ci sono passato, sì. Ecco, io ci passo tutti i giorni col camion. Allora, è uno schifo. La notte ti tirano lui in sacco. Dunque, che bisogna fare? Hanno fatto bene a tirarti i sassi. Ma no, niente, fatto bene proprio fai uscire tutti quanti, sì. Bambini, sì. Rom, tutti quanti, sì. Poi una ruspa, sì. Brutti giù tutto quanto. Vabbè, questo... E poi ognuno se va a trovare da dormire sul camion. Sul camion tuo vengono a dormire. Perché io gli devo da pagare le tasse. No, ma tu non gli paghi niente a nessuno. Sul camion tuo vengono a dormire. Sul camion tuo. E da sequestrarti il camion e darlo ai Rom, che lo usano meglio. Perché non vuoi parlare con Parenzo? È reciproco, caro. Perché Parenzo ogni volta che parla per farsi lo stomaco. Ma come fai a casa tua? Come fai senza specchi? No, capisco perché li avete tolti, però. A casa mia. Ma come fate senza specchi a casa tua? Che ce n'è tanta di monnezza. Come fate? Che se a casa mia c'è la palla per tirare fuori la monnezza. A casa tua c'è la palla meccanica, capito? Fatteli cazzi tu a casa tua, capito? Abbiamo sentito. E non mette in mezzo la gente che non sta qui. Fermo, gente, basta una G. Ma basta una G, però, la gente. Basta una G sola, sai. Che te venga a cercare per davvero. Mamma mia, che paura. L'intervento mitologico di Quirico. Ciao, Quirico. Ciao, ciao. Buonasera, amico Rom. Sono Parenzo. Per lasciarti andare. Handicappato, malato di mente, di centri sociali, bruciarli tutti col Napal. Suona una fisarmonica. Col Napal. Fiamme nel campo Rom. Napal. Tua madre lo diceva. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presento la zanzara. Mamma mia. Cosa vuol dire bastardi islamici? Ma che cazzo vuol dire bastardi islamici, stronzo di merda? Quando sei insulto ti va bene, stronzo che sei altro, stronzo che sei altro, stronzo che sei altro, stronzo che sei altro. Ragazzi, chiamatemi che traduco io sto pezzo di merda in egiziano che cazzo ha scritto, che non ha capito un cazzo. Chiamatemi che parlo di egiziano e vi faccio il culo a sto pezzo di merda. Allora ragazzi, per chi non lo sapesse, stiamo parlando di questo signore. Mi sono fissato oggi, che devo fare, ma lo trovo eccezionale. Nabi al-Wash. Tra l'altro mi hanno detto, ci hanno detto prima in diretta, caro Davide, che Wash significa mostro, no? Mostro. Sì, mostro, sì, sì, sì, vuol dire mostro. Che è un avvocato, un noto conservatore, che durante una trasmissione ha detto in maniera molto chiara, senza pensarci troppo su, che molestare e stuprare le ragazze che indossano abiti che svelano troppo, abiti insomma che svelano magari le parti che a noi sembrano normali, che vediamo ogni giorno nelle pubblicità, per strada, non solo è giusto, ma anche addirittura un dovere per la nazione. Dunque stuprare chi si veste in modo provocante è dovere nazionale. Questo ha detto questo avvocato. Però nell'attesa, caro Parenzo, ci siamo procurati una traduttrice donna. Molto bene. Dall'arabo. Vediamo se può funzionare. Chiamiamo sto cazzo di avvocato egiziano, ragazzi. الو نبي الو ايوه نبي الوحش ايوه انا نبي الوحش Oh, avvocato, abbiamo la traduttrice dall'arabo, le deve fare alcune domande, prego. Calma, aspetta. Sì, che sta dicendo? Chiede chi siamo. Radio 24. حضرتك احنا بكلم حضرتك من راديو 24 من ايطاليا. اهلا بالراديو ايطاليا وبناس ايطاليا. Ah, ok, grazie. Allora, perché grazie. Perché lei pensa che sia dovere nazionale stuprare le donne che vanno vestite in maniera succinta, che vanno stai حضرتك كنت صرحت انه واجب وطني التحرش بالسيدات لو مشيوا بملابس معينه، فهما بيسالوا ليه حضرتك لا مش لو ملابس معينه، انا قلت البنت اللي مقطوع بنطلونها من ورا على مؤخرتها هي اللي بتدعو الناس وبتساعد الناس على التحرش، كانت رساله تحذيريه عشان عاداتنا وتقاليدنا المستمده من الاذان السماويه. Detto lo sponsor? Allora perché dice che non ha detto che le donne vanno stuprate se aspetta amico mio stronzo, aspetta un attimo, dice che è un solo messaggio perché tutte le donne che camminano con il sedere cioè tipo il jeans strappato o la coscia scoperta, allora così, non va bene con le nostre tradizioni e quindi però ha detto che ha detto che bisogna stuprarle, che è dovere nazionale stuprarle, sì o no? L'ha detto o no? Sì, l'ha detto. فانا قلت لهم يعني انتم مستنيين ايه من البنت اللي تقطع بنطلونها من ورا؟ تصريح قاسي وتصريح شديد اللهجه. Sì. Che ha detto? Sì, lui dice che una donna che cammina così sta aiutando l'uomo a violentarla, perché è lei che è lei che vi chiama il fatto. Ma lui ha detto che è dovere nazionale, ha detto che è dovere nazionale questo stronzo, questa testa di cazzo, ha detto che è dovere nazionale. Ha detto così, cioè lui dice che è un senso figurato, nel senso che è stata sì una dichiarazione molto dura, però? Per difendere le tradizioni. Ma difendere le tradizioni un cazzo, gli può dire che qui da noi non è queste cose sono una follia e che lui è uno stronzo, gli può dire così? Ha detto il signor Cruciani che lei è uno stronzo, glielo puoi dire? Veramente? Sì, sì, diglielo, ha detto Giuseppe Cruciani che lei è uno stronzo. المحاور بيقول لحضرتك يعني انه ما ينفعش. طب لا بس ليه الناس ما احتجتش على عناس الدخيدي لما قالت عايزين نرخص بيوت الدعاره؟ يعني الناس زعلانه من تصريح الحال. كلمه قد ايه sta dicendo che noi siamo in un paese islamico e che non va bene camminare così e dobbiamo difendere l'etica Poi? E che non è una follia anzi non ci casca il mondo per tale dichiarazione. Ho capito, ma gli hai detto che è uno stronzo o no? Non gliel'hai detto, non hai avuto il coraggio? No, ho detto che ha fatto una cosa sbagliata, però io non glielo posso dire. Ma no, lei è uno stronzo. Hai capito la testa di cazzo? Cioè, hai capito la testa di cazzo? È la nostra tradizione, girare così non si può. No, ma è pazzesco. Nemmeno la nostra traduttrice bravissima ha avuto il coraggio di dire che è uno stronzo. Ma che avete paura di dire che è uno stronzo? Ma è pazzesco. Comunque mi scrive giustamente Abdalla Kabakemji. Che ha detto questo imbecille? Kabakemji è un altro buono quello. No, bravo Kabakemji. Dice che è un personaggio dannoso. Con la moglie bendata, c'ha la moglie coperta. Che bendata? Cosa vuol dire? Cosa confondi le cose? Dai, su. No, dice che è un personaggio dannoso. Dannoso. Dannoso, solo dannoso. No, deve dire che è uno stronzo. Lo dice. È uno stronzo. Kabakemji mi scrive la prossima volta, se vuoi ti aiuto io con questo, non c'ho nessun contro questo, non ho nessun problema. Me l'ho appena scritto. Magari si trovano d'accordo, papà e ciccia. Ma figurati, non diffamare le persone. È una persona magari, bravissima dalla Kabakemji. Dice che questi personaggi qui fanno un danno all'Islam. Ah, un ovviamente. Danno all'Islam. Questo è l'Islam, amico mio. È l'Islam. È come dire che oggi, il cattolicesimo è Adinolfi. Oggi nel 2000 è come dire che il cattolicesimo è Adinolfi all'Islam. Certo. Puoi paragonare Adinolfi a quello. Dire che il cattolicesimo è come dire che l'Occidente è Cruciani. Per fortuna l'Occidente non è Cruciani. Magari fosse Cruciani. Ma magari un corno, gente che Simone da Brescia. Simone da Brescia con chiunque, scambi di coppie, porcherie. Allora, Yawati, di un po' a Kabakemji che sei tu in comunicazione adesso con Abdalla Kabakemji. Sì, mi sta scrivendo. Enzir, che significa? Enzir, maiale, si può dire o un'offesa a questo qua? Yawati, Kaved, la prossima volta mi aiuto io contro questo. Okay. Disposto a tradurre per Cruciani, scrive in diretta ora Abdalla Kabakemji. Kaved. Dimmi un po', Kaved, Enzir. Ho capito, tagli il momento di rispondere. Yawati. Ti sta ascoltando. Simone, dimmi. Adesso risponderà. Ciao. Dimmi. Ascolta, voglio dire a questi amministratori qua di sinistra qua il 90% di questi amministratori la pensano esattamente come quelle sì, Simone, però ti devi mettere bene il telefono oppure devi togliere le solite cose. Ho capito, amico mio, su, e lo sai. E lo sai, dai. Ecco, giustamente mi ricorda l'ottimo Ramelli della Zanzara, che Danna ha detto la stessa cosa. Cioè, ha ragione l'ottimo nostro Ramelli. Non ha detto la stessa cosa, ma non dire cazzate. Il nostro Matteo Ramelli della Zanzara dice: Danna comunque ha detto più o meno la stessa cosa. Bravo Matteo Ramelli, bravissimo. Sì, ha detto più o meno la stessa cosa. Simone, allora dimmi, dai. Bravo, ascolta, il 90% degli amministratori di sinistra la pensa esattamente come quell'assessore che ha fatto queste dichiarazioni. L'altro 10% è esattamente come quel sindaco che ha vietato a sua figlia di andare assieme a questi ragazzi. Ma no, ma ragazzi, ma non dite cazzate. Non è che tutti pensano che ci aveva provato anche zio Adolf a prendere qualche rimedio politicamente scorrettissimo, ma non gli è riuscito nemmeno a lui. Non è che tutti la pensano così. Non dite cazzate, dai, su. Io sono contro i campi rom. Sono per la chiusura immediata di tutti i campi rom. Però tu non sei contro i campi rom. Sono esattamente così. Questi qua di sinistra sono peggio dell'estrema destra. Pure secondo me. Pure secondo me. Pure secondo me. Fermo là. Ecco, fermo lì. Fermo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Oracle Cloud Show. Le storie di successo Oracle danno spettacolo a Milano giovedì 9 novembre. La Zanzara. La donna che paghi meno è quella che paghi subito. Siamo al top. Tra uno che crede ad un Dio che ordina di tagliare il cazzo ai bambini e uno che crede agli UFO, io propengo per il secondo. Dopo aver ascoltato l'intervento del rabbino Shlomo, anche io ho deciso di farmi circoncidere. Voglio dominare il piacere. Sto rabbino dice un sacco di cazzate. Io sono circonciso, ma c'ho sempre voglia. Tu dici che abbiamo ammazzato pure il rabbino, dici? Sai, la sacralità di quell'uomo e il modo come si è messo in discussione da noi. Sì, sì. Ottimo, sì. La sì. Cosa che tu, quando lo chiavi, dici, rabbino, ma non è una... Cioè, quando gli dici, beh, allora rabbino risponde, ma non è che puoi fare così? Allora, dai, forza, rabbino. Cioè, non funziona così, bisogna usare un altro... Allora, mi ha mandato una mail, l'ottimo, te lo ricordi Amadori? Che fu uno dei primi... Alessandro Amadori, psicologo, ricercatore sociale. Come no? Bravissimo, facevo sempre le trasmissioni ad Iceberg con lui. Ti ricordi che era uno dei primi a indagare nel mondo berlusconiano? Alessandro Amadori, come no? Un grandissimo sondaggista, ma non solo. Grande ascoltatore della Zanzara. Sì, ma una persona molto per bene, molto carina. Vabbè, ma nessuno dice il contrario. No, strano che ascolti questo programma. Ecco, ma fa culo. Allora, ha fatto una ricerca che ha questo titolo: Donne sottomesse, uomini dominanti. Oppure uomini sottomessi e donne dominanti? Beh, amico mio, le conclusioni di questa ricerca del professor Amadori sono queste. L'idea che solo i maschi siano portatori di tendenze dominatorie non è empiricamente corretta. Senti, come dire, anche le frasi utilizzate, la terminologia, le parole, no? L'idea che solo i maschi siano portatori di tendenze dominatorie non è empiricamente corretta. Fra le altre cose, mi sono imbattuto nella mia ricerca in una corrente di pensiero femminista radicale chiamata ginarchia. Io non l'avevo mai sentito parlare di questa cosa. Neanch'io. La quale fa della superiorità femminile sul maschio e del conseguente diritto delle donne a reificare il maschio stesso. Che cazzo vuol dire reificare? Rende la donna. Benissimo. Rende la cosa, scusami. Appunto, reificare il maschio stesso, che vuol dire reificare? Rendere l'uomo una cosa, un oggetto. Esatto, bravo, hai fatto bene a spiegarlo. Nonché a porlo sotto il totale controllo femminile. Beh, una certo, sorta... se è una cosa diventa assolutamente appunto, bravo, non più molto una bravo, persona, molto bravo, ma... molto bravo. Una sorta di nuova ideologia sociopolitica. La ginarchia. Vorrei parlare nei prossimi giorni con delle persone che sono paladine della ginarchia. Della ginarchia. Molto di nicchia, dice l'Amadori, ma con un certo numero di seguaci anche in Italia. E ci invia anche un sito dove andare a vedere. Ottimo, grande Amadori, thank you. Max, Reggio Emilia, vai. Max da Reggio Emilia. Buonasera. Dimmi, caro, dimmi. Buonasera. Intanto volevo rettificare quello che aveva detto la prima telefonata, l'amico marocchino, perché Khanzir vuol dire cinghiale, non maiale. Maiale si dice Allouf. Allora, noi quando scherziamo no, però aspetta, di noi, ma qui quando... amico mio, tu che ne sai? Sei l'arabo, tu? No, perché appunto ti sto spiegando, quando io lavoro con me, sono dei colleghi che sono marocchini, loro mi insegnano, scherzando fra di noi, ci diciamo delle cose, delle offese nella loro lingua, tipo allora... Raslalluf, testa di maiale, per dire, oppure Raslezebi, testa di cazzo, che testa di cazzo secondo me si abbina bene Zeb, a quell'avvocato là egiziano. Come si dice Zeb. Testa di cazzo, scusami? Zeb vuol dire appunto sì. Raslezeb è testa di cazzo, ragazzi, sto segnando sì, tutto, testa o di cazzo. Raslalluf, che è testa di maiale. Raslalluf. Khanzir, come diceva il marocchino, vuol dire cinghiale, non maiale. Maiale è alluf. Vabbè, adesso non è che puoi insegnare la lingua al marocchino tu, cioè amico mio. No, ma perché lo so, perché le poche cose che mi sono fatte insegnare sono i nomi degli animali, sai, quando lavori con le gente come si dice e questo, cretino, come si dice cretino, stronzo, cretino, come si può dire? Non lo sai. Si dice non me lo ricordo più, me l'avevano detto, non mi ricordo più, perché sono le due cose che ci diciamo più spesso. Aspetta, cazzo, ciao Max. Maiale. Vabbè, ciao. Normale. Hussein da Modena, Hussein, grande spazio a Muslim stasera, ad Arabos, Arabos, Hussein. Sentiamo questo Hussein avanti. Pronto? Dimmi Hussein, dimmi. No, non è Hussein, è Hussein, come Saddam Hussein. Ah, come Saddam Hussein, sei anche orgoglioso di chiamarti come Saddam Hussein. Hai capito, non sono marocchino, sono senegalese. Senegalese, vabbè. Sempre... Non è che tutti quelli che si chiamano Cruciani fanno per forza riferimento senegalese, a te. Senegalese, vabbè, Hussein quindi... è senegalese, ecco. Cosa vuoi dire? Sei islamico? Musulmano, sei musulmano? Musulmano, credente, praticante. Quanto cazzo di musulmani ci stanno in Italia, David? Cioè, un milione? Ah, roba incredibile. Soltanto un milione. E voglio curarti della tua ignoranza, no, perché amico sei mio. Un ignorante capra. Bravo, che sì, parla. Un ignorante. Devi stare tranquillo, molto tranquillo. Okay. Tanti musulmani e magari volete conquistare anche altre menti. Volete imporre l'islamismo in Italia, magari? Ma imporre? Ma cosa? Domanda, faccio una domanda. Apri le orecchie e... Orecchie, apri un po' le orecchie, ascolti e chiudi un po' la bocca, magari capirai qualcosa. Chiudi di la più bocca, lo dici attività. A tua sorella. Chiudi la bocca, va bene, lo dirò a mia sorella. Dilla a tua sorella se vuoi, ti volevo non dire lo dovresti che, nemmeno dire. Che dicevi che noi siamo così bravi a bestemmiare contro quelli di Siano, se lo trattiamo tutti di merda, poi sappiamo, chi? Non sappiamo come trattiamo le nostre donne. Le donne, sì. Io ti volevo dire che le donne, cioè, come le dobbiamo trattare, non abbiamo niente da imparare da dall'Italia, perché no, mio, visto questo, che la parola amico, questo, amico femminicidio, ma che la parola femminicidio non esiste in nessun'altra lingua. Ma che c'entra? Oltre l'italiano. Ma questa è una cosa inventata, il femminicidio per me non esiste, tra l'altro, come sfondi la porta aperta. Ma l'avete inventato voi l'italiano? Ma no, l'hanno inventato qualcuno che pensa che ci sia una differenza tra omicidio e omicidio. Vabbè, però ma che comunque, dici? Non abbiamo niente da imparare dai paesi arabi su come trattano le donne, dai paesi musulmani? No. Ma sei impazzito completamente? Non hanno niente da imparare dall'italiano come si trattano le donne. Ah, i musulmani non hanno niente da imparare da noi su come si trattano le donne. Questo è un po' eccessivo. Dopodiché, l'ascoltatore ha perfettamente ragione nel dire che non è qui in Occidente la donna viene trattata con tutti i riguardi. Gli episodi di stupro che hanno visto protagonista il produttore, ad esempio, sono episodi gravi che denotano una cultura di sottomissione del potere rispetto alla donna. Questo mi pare evidente. Ma che sei un coso? Ma che sei un filosofo? Mi pare ovvio, ma non è filosofo, mi pare normale. Cioè, quando tu dici che è normale toccare il sedere a un'attrice, mi può far finire, mi può far dire un'ultima parola? Dimmi, ascoltami, perché la religione musulmana, come viene praticata in modo molto diverso in vari posti del mondo, questo lo sappiamo, Saddam. La cultura egiziana, marocchina e tutto è molto diversa di come si tratta. Ma che cosa vuoi dire? Senegalese, noi non stai ci sono alcuni, come, ci sono non ci che devi insegnare nulla su come si trattano le donne, capito? Siamo noi a doverti insegnare il rispetto, i diritti delle donne e tutte queste cose qua. Io non ho niente da imparare da voi italiani come si trattano Senti, le donne. Senti, Saddam, fate un giro nel tuo paese, vedi un po'. Grazie. Ecco, così aumenti la tua consapevolezza di ignoranza. Dai, su, Saddam. Non essere, non dire stronzate, dai. Ma ciao. No, ma te vuoi, paesi islamici, devi rendere conto che hai un mezzo di comunicazione molto, molto vasto. Ti ascoltano milioni di persone. Quando apri la bocca, sì, devi essere consapevole che ci sono gente che ti ascolta. Questa ragione. assorbe quello che dici. Ci vuole più consapevolezza, abbi un po' di umiltà. Senti, Saddam, tu hai detto una frase, tu hai sì, conoscenza, te la traduco per chi non lo sa. Amico mio, il punto fondamentale è questo: tu hai detto una frase molto semplice. Hai detto: non abbiamo nulla da imparare nei paesi musulmani. No, da come trattate le donne in Italia. Che ho detto, lo posso amico ribadire. Mio, ho detto, amico mio, il musulmano non ha niente da imparare. Io, amico mio, è una cazzata questa roba qua. Io hai non detto ho una niente cazzata. Da imparare dagli italiani, ma tu magari, come si devono trattare gli italiani. Come se noi trattassimo donne. Male le donne, ma che cazzo dici? Ma sei impazzito? Io non ho niente da imparare ma dagli tu italiani, magari, come si devono trattare le donne. Ma tu magari personalmente non hai detto questo, hai detto nei paesi islamici, noi islamici. Io, hai detto. Io sono convinto che il 90% dei paesi un musulmano non ha niente da imparare come si devono trattare le donne. Vabbè, diciamo che sono un po' diverso. Nemmeno Parenzo ci crede a questa puttanata. Ciao, ciao Saddam. Stai sparando puttanate. Ciao Saddam, ciao Saddam. Ciao. Allora ragazzi, avevate nostalgia dei discorsi sullo squirting? No. Avevate nostalgia dei discorsi sulle secrezioni femminili? No, tutt'altro, assolutamente. Se qualcuno di voi provava nostalgia per queste discussioni, qui c'è in corso un grande sondaggio nazionale, un grande sondaggio nel paese, direi. In fondo io mi pongo sempre questa domanda: quando parliamo di certe cose, le persone sanno cosa significa la parola, per esempio, squirting o altro? Cioè, parliamo al popolo oppure parliamo a un'elite? Parliamo a un'elite che conosce alcune parole e invece trascuriamo la grande massa, trascuriamo la plebe, trascuriamo quello che veniva chiamato un tempo il popolino, no? Il popolino in senso dispregiativo, anche se noi lo interpretiamo così. E allora si parta con questo grande sondaggio nazionale. Cruciale, dimmi cos'è Sprint. Buonasera, Associazione Italiana dei Sondaggi, AIDS. Posso chiederle cortesemente se lei abitualmente squirta? Abitualmente? Se lei squirta, signora. Che significa? Significa espellere il liquido dai condotti parauretrali attraverso intorno all'uretra della femmina durante o prima l'acme del piacere. Senta, ma va a farsi fottere. Ma signora, è un gran figlio di puttana. Ma signora, stiamo facendo. Ma più, grande ma... cornuto. Ma signora, stiamo mugliere facendo. Ma corno, tu è che la bucchi nei sordi, mugliere è tutta razzata. Ma come si. Si tiene il palo, fatta vedere, ma se non mi merda. Ma come si permette? Io sto facendo. Pronto? Signora, prima è stata un po' brusca. Senta, ma lei come si permette? Signora, che posso arrivare a telefonare? Signora, signora, guardi, le chiedo soltanto questo: se lei squirta abitualmente. Senta, fa squirta tua moglie, squirta? Sì, sì, abitualmente. Ah, sì, sai che lei è una coccola, perciò, che lei è una puttana, perché tu tieni il colpo. Senta, signora, ma allora. No, mi dica. Ma non lo sapevo proprio come tieni il colpo. Senta, senta, signora, ma mi può dire. Sono un guacchiato lurido, però si tiene il palo, dici, metti sì. Ma le tiene palle, fammi sapere di sì. Quindi lei squirta abitualmente? Ma che facci, che la bucchina con la rotta mugliere, che si dena una e tu tieni il corno, scurnaccia, ti fa capire dove sta telefonando. Ma io ho capito. Ma facci, l'utam, facci, me l'uomo, ho meno. Ecco signora, adesso si è calmata forse. Pronto? Buonasera signora, Associazione Italiana dei Sondaggi. Posso chiederle cortesemente se lei squirta? Non so che cosa significa e non. Guardi, significa espellere il liquido dai condotti parauretrali attraverso intorno all'uretra della femmina umana durante o prima l'acme del piacere. No, ho capito, non scusi. Allora, stavo chiedendo, lei suppongo sia il consorte, se la sua gentile signora squirta. Vabbè, sentite, non ho tempo. E lei sa cosa significa squirtare? No, ma non mi interessa proprio. E la eiaculatio femminilis, signora? Ma se lo faccia lei la eiaculatio femminilis, va bene? Ma no, è soltanto le donne possono farlo. Ma lei mi sembra che è più attinente a questo ramo. No, è soltanto una domanda assolutamente scientifica. Ha rotto anche il cazzo adesso, però, basta. Beh, ma non dica così. Magari ha squirtato su di lei, è soltanto un sondaggio. Vibratore, vibratore, vibra non ti fermare. Vibratore, vibratore, vibra non ti fermare. Poche pile nel cassetto, troppi sogni da realizzare. Se la l'Europa ti viene incontro la tecnologia. Se la carne è scarsa e già c'è la salsiccia di cortesia. Non è, ma quello è un genio. Non è partito però bene questo sondaggio. Ma è un genio. Il sondaggio non no, è partito. No, questo Ruggero è un genio, sì. È un poeta pazzesco. Però se la noia ti arriva la tecnologia, c'è anche un messaggio rispetto, no, all'evoluzione tecnica. Cioè, vabbè, però scusami, non è partito bene questo sondaggio sullo spiritico, mi sembra di capire. Non è partito con il piede giusto. No, no, no. Fastidioso però quell'intervistatore lì, effettivamente, è fastidioso perché... Allal da Firenze, sempre Arabos. Stasera Arabos Allal, dimmi Allal. Ciao Giuseppe, ti è duro tu a Perenzo. Ma lo sai, ciao, lo sai, caro, che abbiamo un sacco di ascoltatori anche tra muslim, eccetera, arabi, eccetera. Io sono muslim laico. Muslim laico, sì, certo. Bravo, tu pensi solo a scopa, amico mio, questa è amico mio. Perché gli devi dire così al muslim? Perché è vero, ho riconosciuto subito. Non è che uno che chiama qui per farsi un maiale. Che puoi mettere la mano sul fuoco. Un altro maiale, ecco il, ecco il Cruciani arabo, eccolo lì, eccolo. Dimmi Allal, qual è, che mi vuoi dire? Volevo spiegarti, halluf è porco, si dice halluf. Alluf, alluf, porco, alluf. Questa è un'altra cosa. Alluf uguale porco. Magnaccio. Vabbè, ma magnaccio, perché gli devo dire magnaccio a quello? Che non so io. Alluf porco. No, io voglio capire stronzo. Come si dice stronzo? Ahmak, ahmak. Ahmak, com'è? Ahmak. Ahmak, ahmak, ahmak. Fuori di testa, fuori di testa. Ahmak, ahmak. Com'è? O si dice anche in fattai. Vabbè, ma tu sei troppo. Che origine hai tu? Ah, che sei? Tunisino, Marocco, egiziano, Marocco, tutti marocchini. Marocco. Ma quanto cazzo di marocchini ci sono in Italia? Vedete la statistica, è pieno di marocchini, amico. Beh, sì, ma sono dei primi. Sì, uno dei primi, perché quelli che vengono adesso che sono tutti stronzi, eh? Quelli che vengono adesso che sono tutti stronzi, amico mio, non ce li vuoi, no, te, eh? Non ce li vuoi quelli nuovi, te, non, no, ce li Giuseppe, vuoi. Tu sei, io sono sicuro che tu sei contro i clandestini, vero? Bravo, o no? Bravo, bravissimo. Ah sì, amico mio, ci troviamo. Non è mai stato clandestino, fratello, lei, scusi. Fratello Allal, questo inserito che pensa che i clandestini siano delle persone che non vogliamo i clandestini. Ma che dobbiamo fare noi? Non vogliamo, rovinano tutto. Ma rovinano tutto. Vedi, ma anche lei è stato clandestino prima, no, dai, però, su. Questa è la realtà, non i giornali. Aspetta, che ci raccontano cazzate. Questa è la realtà, Allal è la realtà. Dai. Sì. Sono delle primizie, diciamo, quelle frutta buone, quelle di prima. Ah, tu dici quelli che sono arrivati prima sono delle primizie, frutta buona, perché capito? Frutta buona. Sì. Allal, te saluto, un abbraccio, ciao. Un abbraccio, ciao, fratello, gente inserita, ciao, gente che lavora, magari questo va a rapinare le banche, no, no, spero perché? Di no, Allal, no, dico così. Ciao ragazzi, a domani, ciao, ciao. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.